Do il benvenuto ai microfoni di Radio Città Fujiko ad Eugenia Galli, responsabile comunicazione del mercato Sonato e responsabile comunicazione del progetto Diametro, che è insieme a Charlie Bianchetti, musicista che ha partecipato al progetto Diametro. Ragazze, benvenute a Radio Città Fujiko. Ciao, piacere. Siamo in collegamento con voi per parlare un po' di questo progetto Diametro, la musica attraverso. Di che cosa si tratta? Si tratta di un progetto nato durante la pandemia. È stato ideato da uno dei progettisti dell'Associazione Senza Spine, Tommaso Giordani, ed è nato perché durante la pandemia, come si sa e insomma se ne è lungamente parlato, i lavoratori e le lavoratrici della musica si sono ritrovati e ritrovate veramente privi di sostegni, nel senso che chi lavora in ambito professionale e ha una carriera stabile, apre sempre le agibilità, tutto in regola, ha ricevuto dei sostegni durante il periodo in cui non si potevano fare concerti e spettacoli dal vivo. Chi invece, e purtroppo si tratta, non nascondiamocelo, della maggior parte delle persone che lavorano in questo ambito, si muove nell'informale, nell'amatoriale, nei piccoli live club, nei piccoli concerti, si è ritrovato a non lavorare e a non avere dei sostegni ulteriori. E il progetto è nato per raccontare alla cittadinanza che cosa significa lavorare in ambito musicale, come ottenere queste tutele, come vedere riconosciuti i propri diritti e per far incontrare musicisti e musicisti con spettatori e spettatrici per raccontare tutta la filiera musicale e per farle diventare operatori e operatrici in grado di muoversi un po' su tutti gli ambiti di questo ambito, quindi dalla teoria musicale, dalla composizione vera e propria fino a questioni più sociali, storiche, di tutele appunto legali, di progettazione e di sostenibilità. Vi chiedo, magari Charlie, questa domanda è riferita forse più a te che hai partecipato all'interno di questo progetto, quali sono state le riflessioni nate all'interno degli incontri e quali sono le riflessioni che ruotano attorno alla tematica del lavoro calata nel contesto musicale e culturale? Credo sia stato un progetto importante perché durante la pandemia penso ci si sia resi conto che non bastano contatti, non basta semplicemente mantenersi stabili in questo settore, ma c'è bisogno di una sorta di coinvolgimento del pubblico per quanto riguarda sia gli artisti emergenti che artisti che magari non hanno interesse ad essere pop star, diciamo, o super famosi, per cui credo sia stato, oltre che formativo per me, per anche il pubblico che magari non conosce i retroscena dell'intrattenimento, del settore culturale, ma anche abbastanza importante, ha evidenziato il fatto che non ci sia un'effettiva filiera musicale, che non ci siano degli effettivi aiuti da parte dello Stato, che comunque non ci sia una sorta di carriera predefinita, un percorso agevolato come può essere in altri settori. Quello di cui sento molto io la mancanza, soprattutto ultimamente, ad esempio, è un sindacato. Non esiste un sindacato che si rivolga esclusivamente ai musicisti o che ci rappresenti. E credo che Diametro abbia iniziato anche un po' questo discorso. Tu parlavi prima, l'hai citato poco fa, la mancanza, quella che senti tu la mancanza rispetto ad esempio a un sindacato, anche poi confrontandoti con le altre musiciste, musicisti e anche lavoratrici e lavoratori dello spettacolo all'interno di questo percorso, ti chiedo un po' quali sono gli altri desideri emersi da questo progetto e anche quali sono le rivendicazioni che in un futuro in cui magari la musica non naviga all'interno della precarietà assoluta le artiste e gli artisti vorrebbero portare avanti. Credo che ci sia un necessario bisogno di una sorta di stabilità, non tanto di tipo economico quanto più appunto un luogo, un percorso che possa permettere agli artisti, appunto, agli artisti emergenti di, non solo agli artisti emergenti, scusami, ma agli artisti del luogo di lavorare e continuare a restare in attività sia sul luogo, poi in modo eventualmente anche itinerante. Penso che il desiderio alla base sia quello di fare, quello di performare, quello di stare a contatto con il pubblico, questo. Vi faccio un'ultima domanda rispetto anche al futuro di questo progetto, se ci sono altri appuntamenti, altre tappe o anche una progettualità un po' più improntata verso il futuro. Certo, allora la parte di progetto che si è conclusa era quella più propriamente formativa. Non ho detto una cosa prima, in realtà molto importante, che il progetto è finanziato dal bando Scuola di Azioni Collettive del Comune di Bologna e di Fondazione Innovazione Urbana. Quindi noi abbiamo avuto fin da subito un sostegno, ecco, a proposito di sostegni istituzionali, in questo caso siamo insomma stati fortunati e fortunate perché abbiamo ottenuto con questo bando i finanziamenti per fare prima appunto un percorso formativo e adesso una rassegna che sta per iniziare e durerà fino al 19 di giugno, che sarà disseminata all'interno di tutta la città di Bologna. Abbiamo molti partner che ospiteranno alcune delle tappe di questo progetto, che sono le serre dei Giardini Margherita, il Cassero, il Circolo Arci Millennium e i 300 Scalini. E poi ci saranno anche date segrete, house concert, eccetera, e sulla nostra pagina si troveranno tutte le informazioni. E sarà un momento in cui finalmente a progettare gli eventi culturali non saranno, diciamo, persone che li calano dall'alto o operatori del settore, diciamo, ormai formati e conosciuti, ma saranno le persone che hanno partecipato a questo progetto. Quindi la rassegna è stata completamente progettata sia, insomma, nella scelta degli artisti e delle artiste che verranno ospitati, sia nella scelta delle location, sia in tutta la parte di budget, dalle persone che hanno partecipato al percorso formativo, quindi appunto musicisti e musiciste, spettatori e spettatrici. E sarà un modo per capire che cosa la cittadinanza vorrebbe veramente vedere all'interno di una rassegna culturale. È un po' un esperimento. Noi abbiamo cercato di fornire come associazione Senza Spine gli strumenti che potevano essere utili per fare questo lavoro, ma non abbiamo interferito, diciamo, nel processo di progettazione vera e propria. Quindi sarà un modo anche per capire se questa formazione è riuscita in qualche modo a rendere queste persone operatori e operatrici culturali. Ovviamente così all'inizio, in piccolo ancora, però è stato un tentativo che secondo me, insomma, vale la pena di considerare. Ragazzi, io vi ringrazio e speriamo di risentirci presto per continuare a parlare di questo progetto, e ancora grazie. Grazie a te. Grazie. Grazie a te.